È a letto, non si muove. L'encefalomielite mialgica è un nome volgare per dire un banale mal di testa o è una cosa un po' più... No, si chiama anche ME, non so... No, perché magari non dovresti... Sai che non si può per la privacy dire che una persona ha questo o quell'altro. Te l'ha detto lei? Sì, no, lei lo dichiara pubblicamente su Facebook, perché poverina, lei sono 2 anni che ha letto, però scrive poesie, riesce a scrivere poesie, riesce a stare su Facebook. Alle volte il suo fidanzato posta per lei e scrive poesie, e dunque ha scritto un piccolo haiku e un suo amico molto carino l'ha musicato, per cui adesso lo ascoltiamo. Ma certo. Si chiama Words di Paula Knight e la musica è di Jesse Franklin. Night. Devo dire che questo incipit un po' neurologico è perfetto per l'argomento della serata. Qual è l'argomento della serata, Chiara? L'argomento della serata è ASMR. Che cosa sta per? Che sai che... Risposta sensoriale apicale autonoma. Cazzo, sarebbe in inglese Autonomous Sensory Meridian Response, detto ASMR. In italiano invece risposta sensoriale apicale autonoma sarebbe RSA, che di questi tempi non suona benissimo. Quindi teniamo l'acronimo in inglese. Vuoi sapere cos'è? Ah, guarda. Sì, dimmelo. Bene, guarda, allora... me lo dice lui, guarda. Bravo, faccelo dire da lui. 20 suoni rilassati. Aspetta. Qualche difficoltà a collegarsi anche lui. Siamo tutti un po' sconnessi. ASMR, soddisfacenti suoni rilassanti. ASMR, satisfying, relaxing sounds. Tomò. Ecco. Hai capito. Ne parliamo perché seguendo il nostro fil rouge caotico attraverso quello che capita nel web, come solo sai fare tu, come solo so fare io, un po' di tempo fa mi ero imbattuta proprio sul blog come si chiama, Childish Bonamino, di cui abbiamo parlato un pochino di tempo fa, che è un rimasticatore, quindi se uno vuole una specie di Reader's Digest del web, web, quello può essere anche una buona risorsa. Lo citava e a me sono venuti in mente, ecco, sono andata a documentarmi e ho guardato alcune cose che magari proporremo, e quindi oggi noi, oltre a salutare Franco Grilli che ci sta ascoltando, ciao Franco Grilli, mi hai fatto perdere completamente. Sai che il nostro sistema neurologico è instabile stasera, sì, no, ma ogni granellino di polvere si manda un attimo, cioè secondo me ci stiamo bevendo il cervello proprio globalmente, ma perché non siamo più abituati a relazionarci e quindi si rattrappisce il neurone. Questo è un fenomeno abbastanza prevedibile, ecco. Comunque niente, no, volevo dire che in barba ai nostri raffinatissimi sistemi audio, stasera consiglio di ascoltarci in cuffia. Ah, ecco, in cuffia addirittura. Sì, perché in campo artistico questo tipo di sonorità che coinvolgono polisensorialmente il nostro apparato autonomo, vengono trasmessi con questi suoni che sono registrati in binaurale, e ci sono alcuni artisti importanti che hanno lavorato sul binaural recordings. E quindi noi, se Pasquini ha fatto quello che io avevo chiesto di fare, ha caricato tutti i vari frame MP3 eccetera eccetera che avevo mandato, ascoltati in cuffia sono più, cioè se no non si capisce un tubo. E dunque quale vuoi ascoltare? Ma io andrei con, partiamo con un banale ASMR. Non so in che ordine te li avevo messi. Non mi avevi dato alcun ordine. Ma sì, cioè, ce n'è sì, uno che è scritto per primo. No, aspetta, vado a ripescare la mail che ti ho mandato ieri. Siamo in balia di noi stesse. Allora, suoni binaurali. Puoi scaricare un MP3 da Wikimedia. Ok, però mi raccomando, ascoltatore attento ed esigente e anche musicalmente informato, mettetevi la cuffia, perché se non vi mettete la cuffia questa cosa non ha senso. Allora, questo è un esempio di una registrazione binaurale che viene fatta. This is an example of a binaural stereo headphone recording made for the Wikimedia Foundation. I'm now going to take this piece of ordinary printer paper and move it around the stereo field and make some sounds with it. E la musica di sottofondo è binaurale anche lì. Che cazzo è sta roba? È una roba che, allora, se qualcuno cioè, l'ascoltate... Cosa vuol dire binaurale? Adesso binaurale, te lo stavo spiegando, ma mi hai interrotto. Come al solito procediamo così, in modo un po' caotico. A tentoni nella notte. D'altronde abbiamo aperto con Paola Knight, quindi come si potrebbe andare altrimenti? Infatti. No, allora, questo binaural recording, che enfatizza al massimo la sensazione ASMR, di cui parleremo poi, viene... Beh, non so se riuscirò ad arrivare alla fine di questa spiegazione cattedratica, cioè la mia lectio magistralis viene costantemente interrotta da Pasquini che manda cose a casaccio. Io ho perso ore ieri nello fare una scaletta, ma naturalmente è andato tutto a farsi, è partito hair long black hair. Long black hair, quello viene dopo. Okay. No, allora, cosa si fa con questa registrazione binaurale? Sono suoni che sono registrati da dei microfoni che sono posizionati in diversi punti dello spazio. E a volte vengono messi proprio come se fossero dei tappini per le orecchie dentro a un manichino che poi ha una specie di testona manichino morandiana, in modo che vengano registrati con questo effetto stereofonico. E quindi quando vanno in cuffia si riproduce questa specie di Dolby Surround interiore, che però sentito in cuffia, insomma, ti fa sentire un po' posseduto, no? Come un approccio all'autoaiuto. Cioè una as a self-help approach. Così dice. Sì, questo però è l'ASMR, perché non confondiamo le due cose, okay. Cioè, allora, i suoni binaurali sono ottenuti con una tecnica di registrazione e puoi mandare anche della roba che non è ASMR, Per esempio su Wikimedia c'era dopo una rumba che è quanto di più lontano da, ma non te l'ho mandata quindi non ce l'hai. Parla anche dei video del pittore personaggio televisivo statunitense Bob Ross, io non ho mai sentito più. Non ho la più pallida idea di chi sia né di dove tu stia ora guardando. Sto guardando Autonomous Sensory Meridian Response su Wikipedia in italiano però. In italiano, sì, ah beh, perché poi no, invece sull'ASMR, l'ASMR invece sono questi suoni, queste sonorità un po' suadenti, tipo piccoli suoni, un po' ipnotici, che fanno venire i classici brividini nella schiena. A tutti. Cioè, è una cosa sensory meridian response autonomous, cioè tu lo voglia o no. Ti metti davanti un brividino, a queste cose, ti ascolti uno che strappa un pezzo di carta registrato bene, ti arriva il brividino. Sì, okay. se non arriva, cioè sono vai dal neurologo. Perché vabbè, insomma, c'è sicuramente anche una componente soggettiva entro certi limiti, cioè, però insomma, sono studiati apposta per questo. Poi chi li ascolta di solito è intenzionato a procurarsi il formicolio, quindi ci mette il suo impegno. Capisco. Capisci? Bene. E dunque non so se vogliamo mandare un po' di queste sonorità ASMR, che non so se siano registrate anche in binaurale. Chissà se l'ascoltatore è attento, ha compreso la differenza tra ASMR e binaurale. Ma magari Oscar Moroni ci vuole dare un feedback. Oscar Moroni, dacci un feedback. Ma ti va bene Hair Long Black Hair allora? No, assolutamente no. Non pensarci neanche, non perché adesso io ti ho fammi vedere. Ma come? Io ti ho mandato aspetta un po', suoni ASMR. Ah, perfetto. Esempio carino di suoni ASMR. Molto che ho bene. Dovuto lavorare parecchio per escludere quelli pornografici, perché la maggior parte. E dove me l'hai mandato? Sul mio. Sempre via mail. Te la devo rimandare? Però posso farti sentire un nuovo singolo di Pietro Spanò che si chiama Come sonnamboli. Senti. Come cavarsela in tutte le situazioni. Capito. senza umano infasto. Devo dire che non l'ho quasi ascoltato perché ero sempre dall'altra parte a cercare il file. Quando l'errore è una possibile parentesi. Comunque lo ringraziamo Pietro Spanò per averci spedito lui stesso medesimo questo pezzo. Ma questo è un bellissimo pensiero. Comunque vero. Io dopo mi voglio leggere il testo con calma perché ho capito che doveva esserci qualcosa di interessante, però non l'ho ascoltato bene. Non hai ascoltato bene? Vabbè, no. ma perché eravamo intenti a cercare dei suoni ASMR very satisfying, molto soddisfacenti. Molto soddisfacenti, no talking. Proprio... No talking è, no. È molto soddisfacente. Esatto, è sospetta questa cosa. A Pasquini comunque non piacciono, lui è un uomo tutto d'un pezzo e ha detto che sono orribili. Cioè, secondo me è una gran cagata, obiettivamente. Vabbè, è bello, cioè, voglio dire... Sentire un bicchiere di acqua frizzante registrato bene con cioè, Pasquini che ci parla sopra, cioè per me è un bicchiere di acqua frizzante registrato bene, cioè, ma è no, un modo per partire per raccontare poi cosa non ti concentri, non ti lasci andare al tuo istinto sensoriale, rilassati, chiudi gli occhi e ascolta. Questo che cos'è per esempio? Tu che non lo so perché cioè la visivamente sono interessanti queste cose, no? Cioè, questo è un mescolio di maionese per dire. Ecco sì, ci sono delle cose che visivamente sono un po' anti ASMR secondo me. Alcune funzionano, altre suscitano più che altro un senso di ripugnanza, ma... Comunque avevo sentito dire di questi che stanno tutto il tempo ad asciugarsi i capelli perché gli piace il rumore del phon. Penso che più o meno sia il tipo di pubblico sia più o meno sì, lo stesso. Sì, è possibile. Vabbè, alcuni dicono che è una forma di autoaiuto e tutto sommato non c'è niente di male. Però poi da lì questo ha preso piede, soprattutto in questo periodo in cui... Non ci abbiamo un capo. Siamo tutti distanziati, quindi il rapporto fisico si è... come dire, dilatato all'interno dell'etere e guarda caso sono spuntate a livello artistico alcune cose che secondo me vagamente ricordano questa tendenza ASMR. Secondo me gli artisti, quelli sound, performer, eccetera eccetera, un po' si ispirano a questo genere che è decisamente più pop, almeno nella maggior parte delle declinazioni. E però ci sono alcuni esempi illustri. Ma sono questo già alle 19. Scorreggiare nel latte per vedere se fa le bollicine. Questo è un esempio illustre. No, invece, se vogliamo interrompere il flusso, perché qua sono già le 19:27, sì, siamo in un ritardo pazzesco. Il flusso. No, abbiamo, cioè non avevamo niente di cui parlare, stasera l'abbiamo riempito troppo. Ma siamo riusciti comunque a dire niente, ma a metterci un sacco di tempo. Esatto, come al solito. Come al solito. E dunque, se abbiamo ancora un minutino prima della pubblicità, fammi almeno citare l'unica artista veramente degna di questo nome, esatto, che ha lavorato con il binaurale, con queste famose audio walk, che sono delle registrazioni binaurale dove lei accompagna il visitatore. Stiamo parlando di Elisa Fontana. No, stiamo parlando di Elisa Fontana, ma stiamo parlando di Janet Cardiff, che sicuramente Elisa Fontana conosce benissimo. Sono Pappa e Ciccia, però Elisa Fontana è in Canada in questo momento. Scusa, Janet Cardiff è canadese, mentre Elisa Fontana è a Londra, credo. Anch'io. Magari una volta glielo chiediamo. Sì. Quindi, se vuoi mandare anche questo esempio di Janet Cardiff, però valuta tu. Un pezzettino. E che era quello che avevi mandato all'inizio. Ah, eccolo qua. Adesso non lo trovi più. È questo. Sì. It was raining yesterday too. The air in the hotel room was thick and sticky. The room smelled like fresh paint and fresh carpet when I moved in. I discovered a splash of blood on the curtains. It's like something happened and they've covered it up. The first thing I got there was this young man right down on the curb with a little boy with his arm around the boy, and they were lying on the ground, and he was pounding the earth with his hand, and he was protecting his son, and he was hammering the earth, and instantly you knew this was something horrible. There are always so many layers in front of my eyes. I saw a man pushing a woman into a car. I saw a boy running down the street. I saw a woman fall to the ground. How can I really know what I've seen? Dispiace interromperla, però... Spaziale. RC, BGL, G... Che famo stasera? Sky on Netflix. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. E beato te, Cesare. Perché sei... No, ah, ecco, no, stavi non, parlando. Non facevamo neanche in tempo a... Ah, stavo parlando ma non c'ero. Tocca, che strano, non succede mai. Sì, infatti. Ah, ma adesso possiamo fare questa cosa qua. L'angolo della menzione. Perché il nostro amico Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, mi ha spedito una roba per cui succede una cosa domani, martedì 12 gennaio alle ore 20 nella pagina Facebook del Museo Civico del Risorgimento del risorgimento a questo punto, esatto, del Risorgimento Certosa di Bologna, c'è la storia a porte chiuse con Angelo Pierro, storica dell'arte, in diretta a Facebook su Associazione Amici della Certosa di Bologna, con un intervento su Louis Collet, pseudonimo della francese Louise Revoil, del 1810-1876, poetessa e scrittrice dal carattere forte, fu vicina agli ideali risorgimentali italiani, vissa a lungo a Bologna, e questo praticamente è tutta una sorta di lezione su Facebook, sul facebook.com Amici Certosa Bologna. E adesso faccio anche così. Dopodiché, perfetto, giovedì 14 gennaio arriva sempre da Bologna Musei l'incontro online sulla piattaforma Google Meet Nel mondo in difesa della libertà, in viaggio con gli esuli italiani in lotta per l'unità d'Italia, sempre dal Museo Civico del Risorgimento, stavolta è su Google Meet, un giro del mondo per immagini sulle tracce degli uomini e delle donne che a migliaia negli anni tra la restaurazione e l'unificazione lasciarono l'Italia per sfuggire a persecuzioni politiche, per continuare a portare ovunque le proprie idee di libertà e fratellanza. E questo è giovedì alle 20:30 su un link che troverete domani su coxospaziale.blogspot.com. E poi abbiamo anche venerdì 15 gennaio, ecco, alle ore 18 abbiamo la nostra Paola Pietronave che era presente nella puntata qualche puntata fa, 3 o 4 puntate fa, che insieme a Cecilia Guida, Francesca Guerisoli, Matteo Lucchetti, Aria Spinelli, Emanuele Braga e premiata ditta, che sono Anna Stuart Tovini e Vincenzo Chiarandà, parleranno del libro che si intitola La condizione italiana contemporanea, lavoratori dell'arte 2009-2011, con un punto interrogativo tra parentesi. Modera Lorenzo Balbi, che conosciamo, direttore artistico del Mambo. L'incontro è aperto al pubblico ed è su Google Meet il 15 gennaio, venerdì, alle ore 18. Vedi che stavolta, perfetto, senti questo AMR, ecco, del fallo foglio di carta. Fallo girare un po', ecco, bravissimo, così, perfetto, vedi? Proprio così, sullo sfarfallio. No, in realtà lo sfarfallio si può fare davvero, senti, adesso lo faccio. Vabbè, ma è esattamente senti uguale, che lo faccio, ma senti davvero, che roba, senti, ha già imparato. Ogni tanto fa anche un po' di sfarfallio il mixer perché faccio pan a destra e a sinistra, cosa che esiste in realtà dagli anni 60, non ho capito perché adesso deve venire di moda sto AMR. Comunque, vabbè. This is an example. Continua e riparte. Io non sto toccando niente, fa tutto da solo, fa tutto lui. No, perfetta l'esecuzione, sul piano pratico devo dire te la cavi benissimo, su quello teorico meno, perché continui a non capire che binaurale e ASMR sono due cose diverse, però pazienza. Adesso noi dobbiamo andare fuori porta, Pasquini. Dobbiamo andare fuori porta e me lo dici così, senza mezzi termini, anche no, perché sono 19:35. Più che altro senza preavviso, per cui vai a cercare. Allora, la sigla di fuori porta, eccola qua, l'ho trovata, adesso riusciamo anche a farla sentire. Fuori porta. E dove andiamo fuori porta? Andiamo a parlare con Lucia Biolchini, che è una, si definirà poi magari meglio lei, comunque curatrice, registrar, esperta d'arte, nonché gallerista dello spazio di ricerca Wunderkammer a Vignola, che di recente ha lanciato una piattaforma online per raccogliere dei contributi audio dagli artisti. E visto che io ho deciso di impostare questa trasmissione proprio sui contributi sonori di artisti visivi, ascoltiamo Jenny Owen Youngs. No, scherzo. Esatto. Chiamiamo Lucia Biolchini, che al telefono ci risponderà. Almeno si spera che ci risponda. Io non ho capito oggi la musica di sottofondo perché è così. Stiamo chiamando. Adesso vengo di là anch'io. Eccola qua. Sono qua. Sei qua. Eccoci qua, sei già in onda. Ciao Lucia. Ciao, aspetta che abbasso la radio. Ciao, mi sento molto fuori porta, devo dire. Sei molto fuori porta. Sai che corso spaziale non l'avevamo mai sentito. Abbasso la radio, che bello. Abbasso la radio, fantastico. Abbasso la radio, adesso, certo. Adesso Pasquini viene qua con me, ma forse più che abbassarla devi spegnerla, perché mi viene una specie di ritorno, non so se... Aspetta un attimo. Aspetta, vediamo un po', cambio. Mi senti meglio così? Mi sento meglio. Bene, ci sentiamo benissimo. Tutti meglio. Adesso Pasquini fa anche un po' di binaurale. Ed eccoci qua. Allora, io ho fatto una presentazione che può darsi che sia un pochino inesatta. Se l'hai ascoltata, hai la facoltà di aggiungere quello che credi su te stessa. Guarda, ti ho sentito al volo, va benissimo. Cosa faccio? Cerco, mi muovo nell'ambito delle arti, siamo qui a Vignola, come hai già detto, con Dislocata, tra arte contemporanea e arte antica cerco di sopravvivere come tutti noi in questo periodo. Ok, quindi di resistere alla schizofrenia che già ti caratterizzava prima e che adesso, distanziata come tutti... vabbè. Però noi siamo qua in particolare per parlare di un tuo progetto che invece ha a che vedere con il sonoro. Come ti è venuta questa idea di lavorare col sonoro proprio adesso? Ma allora, in realtà questa è un'idea che già covava sotto la cenere da un annetto e mezzo. Poi, visto il periodo, è di nuovo è scattata fuori per essere realizzata proprio in questo momento di chiusura, dislocate chiuse, siamo tutti chiusi, facciamo fatica a programmare qualunque cosa. Ma l'idea fondamentale è venuta fuori in realtà da un sentimento di noia. Devo essere sincera, di stanchezza nel vedere l'arte contemporanea digitalizzata, virtuale. Io non ne posso più, non so voi che cosa ne pensate, però ho bisogno di ricominciare a toccarla. Quindi, visto che in questo momento non è possibile, ho coinvolto gli artisti che finora sono stati, hanno collaborato con Dislocata per una sorta di sfida, ovvero li ho invitati a inviare materiale esclusivamente sonoro. C'è stata una grandissima risposta da parte di tanti artisti che alcuni già utilizzano il sonoro per quanto appunto all'interno di certe installazioni dei loro lavori nell'ambito performativo e altro, altri erano completamente a digiuno rispetto a questo tipo di esperienza, quindi si sono messi alla prova in sostanza e abbiamo già raccolto 12 tracce che sono in questo portale di SoundCloud, si chiama Camera d'Ascolto. Ah, ecco, perfetto, perché poi ci manderai tutti i riferimenti per trovarla. Io intanto lo stavo cercando disperatamente mentre tu parlavi e non stavo tanto riuscendo perché non mi ricordavo più che era su SoundCloud. Quindi che cosa devono cercare i nostri... Basta cercare su SoundCloud Dislocata, perché ho visto di Camera d'Ascolto ce ne sono altre, me ne sono accorta dopo. E altrimenti direttamente dal nostro sito, che è dislocata.it, c'è il link direttamente per andare alla playlist di Camera d'Ascolto. E quindi abbiamo già ricevuto 12 tracce, la seconda serie è andata in onda già da ieri pomeriggio. Troverete di tutto. Praticamente un CD completo, 12 tracce. Esatto, è già pronto per essere masterizzato. Molto di più. abbiamo più di 3 ore di sonoro alla ma fine. E quindi quanto durano mediamente? Cioè c'è una durata media oppure gli artisti si sono sbizzarriti in durate? No, volutamente non ho preteso né un limite di durata né un tema. Ecco, l'unica cosa a cui tenevo molto è che non ci fosse nessun tipo di retorica verso questo periodo, quindi nessun riferimento verso il Covid o questa situazione, perché volevo che fosse uno spazio di libertà, ecco, fuori da questa contingenza. Dai, ci sono pezzi che variano dai 45 secondi e più lungo dura un'ora e mezza. Un'ora e 25 e 22 secondi per essere perfetto. Precisi. Tiziano Popoli, bravo. Tiziano Popoli, ecco, che cosa ha fatto questo Tiziano Popoli che io non conosco, ma ci dice anche qualcos'altro su di lui? Così ci, sì, allora, dunque, la cosa interessante è stata questa, che mentre gli artisti visivi si sono prodigati nella costruzione di composizioni, messaggi, voci, anche elettronica, ecco, gli unici due musicisti puri che sono intervenuti in questa operazione finora, che sono Tiziano Popoli e Cristian Mastroianni, mi hanno mandato dei paesaggi sonori fantastici. Sentivo prima che parlavi di registrazioni binaurali, Cristian Mastroianni ha fatto questa operazione incredibile, infatti assolutamente da ascoltare in cuffia. Tiziano Popoli invece ha colto la purezza anche del silenzio, è un'ora e mezzo di risveglio della natura. Devo dire che Cristian Mastroianni aiuta un po' anche a chiarire il punto tecnico della registrazione binaurale, perché se andate su soundcloud.com e guardate l'icona, la fotografia che ha scelto Cristian Mastroianni per come dire, accompagnare il suo brano, è proprio il dispositivo di cui parlavo prima, che viene usato per le registrazioni, dove ci sono due cuffione che sembrano due cuffie, in realtà sono due registratori, due orecchione pronte a captare i suoni e riportarseli. Esatto, quindi troverete veramente materiale molto molto diverso, cioè non c'è un brano ovviamente uguale all'altro. Ci sono anche, ecco, delle, mi sono raccomandata questo con gli artisti che abbiamo coinvolto, cioè anche se avevano materiale già utilizzato eventualmente per installazioni o altre cose, cioè di rendere le cose che mi mandavano autonome. Avevo bisogno che quello che si andava ad ascoltare fosse una cosa a sé e in autonomia. Ma questa, sì, perché noi abbiamo un po', credo tutti quanti, noi artisti, ma anche chi si mette in relazione con le opere degli artisti attraverso la fruizione e non attraverso la produzione, un po' questa specie di mutilazione che viviamo, no? E quindi il sonoro può essere una via per in qualche modo superare questa barriera che impedisce di essere fisicamente nei luoghi. Allora noi su SoundCloud leggiamo, adesso vado, non so se è sulla seconda serie o se li leggo semplicemente, però alcuni nomi: Sergio Smerieri, Crettatura, Cristian Mastroianni, Fin dove con le mie gambe posso arrivare, Emanuele Ascari, Vie d'acqua, De Orza Audela, l'ho pronunciato bene? Deor o Della, è il pezzo che vi ho mandato, esatto, è Complementi d'arredo. Complementi d'arredo, che forse Stefano manderà, non lo so, ce lo dirà poi dopo. È sempre una sorpresa con vorrei lui. Vorrei fare un brindisi. Riempite i vostri bicchieri. Questa sera è una serata speciale. Perché? Per diversi motivi. Che cos'è che abbiamo ascoltato per un micro questo frammento di 13 minuti? È proprio l'inizio dei complementi d'arredo di Deoro Della, in realtà è il duo Salvatore Insane e Elisa Turco di Veri, che si occupa, che è un duo che lavora in teatro, danzatori, coreografi, videomaker, videoartisti, ed è una composizione praticamente in 4 anni atti, cioè in questi 13 minuti c'è una sorta di narrazione drammaturgica, no? Lungo tutto questo sonoro, messaggi, cose rubate da internet, dichiarazioni, vi divertirete. ne mando un altro pezzettino. Spazi liberi in cui volare. No, questo è Carmela Corsitto, lezione di volo. Respirare aria pura. Vivere l'immensità. Sentirsi liberi. Amare. Poi naturalmente li stiamo ascoltando con un iPad, per cui si sentono sì, no, vabbè, un po', questo un po' così alla boia di un Giuda, però bisogna assolutamente sono da ascoltare in cuffia a casa. Sì, in camera, ecco, visto che si chiama camera d'ascolto, in camera, che è una camera d'ascolto ma anche un po' di decompressione, cioè chiudiamo gli occhi e ascoltiamo un po'. Io almeno personalmente ho bisogno di questa cosa. Vedo che c'è anche tra i vari artisti intervenuti Isabella Bordoni con Memoria, certo, Restante, che è stata anche nostra ospite qui quest'estate, quando si, esatto, poteva ancora, esatto, un po' giracchiare. Non eravamo proprio liberissimi, esatto, ma forse un po' più liberi di adesso, quindi mi scende quasi una lacrimuccia al pensiero. Salutiamo, sì, Isabella, e senz'altro andremo ad ascoltare le tracce che ci propone Lucia Biolchini, e sperando anche poi di poterci rivedere a Dislocata Wunderkammer, che si trova a Vignola in via Cantelli, se ricordo bene, ormai è tanto che non vado più. Aspetta, questa la dice lunga. Beh, magari quando fra 5-6 anni potremo tornare a uscire di casa, vi riposteremo l'indirizzo. Lucia, ti ringraziamo tantissimo per essere, grazie, stata con noi stasera. Approfitto, Chiara, per invitare a questo punto anche voi a partecipare a questo progetto, perché partecipiamo, allora, estendiamo l'invito anche al nostro ascoltatore attento, a giusto? Oscar Moroni. A Oscar Moroni, sì. Oscar Moroni potrebbe essere pericoloso, sono sicura che riuscirà a mandarti qualcosa di indimenticabile. Benissimo, Lucia, ti ringraziamo tanto. Grazie a voi anche dell'invito, e a presto. Grazie a voi, a prestissimo, ciao. It's a long way back to Katona, and time isn't mine to kill. Oh, just when I was certain I owned you, yeah, it's clear I never will. While you're away and I'm back in Katona, watching the neighbor's yard, you're talking with Susan, laughing with Mona, and I'm thinking long and hard. Nothing's ours, you're not mine. I'm at home, on my own, all the time, all the time, all the time. Will you walk back to Katona and find the girl you told has eyes like home and hands that you wanted to hold? No, I'm not yours, nothing's ours, you're not mine. I'm at home, on my own, all the time, all the time. C'è chi si innamora di Francesca Crispello e chi si innamora di Maga Glaspie, con anche un po' una cottarella per Gianni Owens Young. Vabbè, quella ormai è assodata, è assodata, è quasi una moglie. Sì, infatti, questi sono, cavoli, non mi ricordo come si chiamano, il gruppo di Farnini. Ah, non lo so. E questo invece che avevamo ascoltato era un pezzo che lei registra live su YouTube assieme a Julian Lake, chiamato Katona. No, è un posto che esiste davvero negli Stati Uniti. No, Lague, L-A-G-E. Ah, allora sì. Mi è fregata anche com'è. Stavolta. Sai com'è? Anche se l'altro giorno qualcuno mi ha detto che ho pronunciato shits of paper. Sì, perfetto. È fantastico. Ma forse hai fatto apposta. Può darsi che abbia fatto apposta. Perché volevi volta... fare pubblicità. No, non diciamo cosa. No, una volta. Ah, sì, certo. No, una volta sono entrato in un ufficio postale a Londra e c'era tutto l'ufficio postale che stava ridendo, ma proprio a crepapelle. E in mezzo c'era un italiano che diceva: "What are you laughing at?" Cioè, perché ridete tutti? Ho solo chiesto un foglio di carta. E naturalmente, cioè, aveva detto appunto: "I only asked for a sheet of paper." E tutti, io ne ho una anche peggiore, ma che non è raccontabile in radio. Comunque, magari ve la racconto e l'ascoltatore attento si va a fare una ricerchina su Google Traduttore, che è un carissimo amico francese, anche molto bravo artista, che salutiamo, ma adesso non diciamo chi è perché forse non gli farebbe piacere in questo contesto. Okay. Appena arrivato in Italia è andato dal fruttivendolo a ordinare un sacchetto di fichi, solo che fichi in francese non si dice fichi. Ok, andate a cercare come si dice fichi. Come si pronuncia soprattutto. There are those who fall in love with Francesca Grispello. Hai capito come si dice fichi in francese? E ho visto Lupin su Netflix l'altro giorno. Non ho la televisione, però a me piaceva Lupin. Cos'era? Lupin III? Lupin III, sì, no? Infatti l'ho visto per quello, perché poi c'è questo attore di colore bello, bello alto, muscoloso, eccetera, che va in giro per Parigi. Devo dire che mi ha fatto venire voglia di andare a Parigi. E dopodiché ho spento Netflix. Perché tanto non ci possiamo andare. Quindi. Sì, no, anche no, più che altro perché se lasci Netflix in casa mia, guardano tutti Netflix e non fanno nient'altro, che compreso me, per cui è abbastanza. Quindi vi troveremo tutti, esatto, poltronati e divanizzati. Io ho fatto l'abbonamento a Netflix per un mese. No, è quello che facciamo noi, l'abbiamo fatto per Natale e poi l'ho lasciato scadere. L'ho lasciato scadere e mi scrivono tutti i giorni mandandomi delle icone con cui si disperano. Ti informo che puoi dirgli di smetterla. L'ho fatto quasi immediatamente. Lo farò perché. vabbè. Bene. Bene. Bene. Sono le 19:53 e abbiamo quasi finito Coxo Spaziale. Sì. Di che cosa parleremo la settimana prossima? Dunque, la settimana prossima io non so se ci sono, quindi. Okay. Dovrei un po' arrangiare, come dici tu. Vabbè, ce la si può fare. Io in realtà sono più di un mese che sto tentando di avere in trasmissione Benedetta Santini, che tu non conoscerai. No, infatti perché, devo mettere mia ignoranza. È una star di TikTok, per cui. Ah, fantastico, te la prendi con me perché ti porto i suoni ASMR e poi proponi direttamente TikTok. Perfetto. Sì, no, ha un account che si chiama Filosofia e Caffeina, che trovo spettacolare perché riesce in 3 minuti a raccontarti qualcosa di filosofia, anche alle volte anche non proprio superficiale, nel senso che riesce anche ad andare un attimo in profondità, perché 3 minuti non sono tanti, e poi soprattutto riesce ad appassionare un sacco di giovincelli in TikTokers nel mondo della filosofia, che mi sembra fondamentale. Ah, è interessante questa cosa. Devo dire che queste sono il tipo di cose che secondo me noi artisti e tutti quelli che ci circondano all'interno del fantomatico e sedicente sistema dell'arte che non facciamo abbastanza. Damien Hirst si è messo a farlo ultimamente, sta raccontando lavoro per lavoro tutti i lavori che ci sono nel suo studio su Instagram, tipo in video da un minuto ma e mezzo. I suoi o anche quelli degli amici? I suoi. Ah, insomma, questo ovviamente da un punto di vista dell'artista si può capire già, ma però mi sembra anche un po' forse meno interessante. Cioè, si dovrebbe cercare di tradurre in pillole, ma non noiose, i lavori degli altri. E i lavori anche degli altri, cioè, visto che c'è tanta gente che questa cosa la fa. magari con dei comunicati stampa che spesso risultano anche un po' pletorici e poco... Mi hai fatto venire voglia di fare dei TikTok sui lavori degli altri, che non ho tempo. È quello che sta... Non ho tempo. Vabbè, lanciamo quest'idea, magari qualcuno dei nostri ascoltatori si lascia ispirare, poi magari se lo fa ci può fare un ringrazzino su TikTok. Esatto. Dicendo che quest'idea non gli sarebbe mai venuta se non avesse ascoltato la puntata numero 344 di Coxo Spaziale. Oppure potremmo fare l'account TikTok di Coxo Spaziale, chissà. Sì. Comunque niente, non parte. Volevi mandare un altro suono ASMR? Volevo mandare un altro suono ASMR? No, in realtà volevo mandare... Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Io naturalmente ero Chiara Verde. Ero Chiara Azzurro, mi sbaglio. Chiara Azzurro che sostituisce questo mese Chiara Verde, e io ero Stefano W. Pasquini che sostituisce se stesso in tutte le stagioni. E questa invece è Hachiku, quella che abbiamo ascoltato anche l'altra volta. È un altro nuovo mio amore sonoro. E questo un po' piace anche a me. Devo dire che... Comunque Katona, secondo me, il pezzo di prima piace al tuo amico musicologo, non può non piacere. Non può non piacere, glielo chiederemo. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Cioè, vediamo era linguaggio figurato, naturalmente, perché non ci vediamo. No. Siamo in radio. Io poi nemmeno mi sentirete. Coxo Spaziale.